e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci ritrovate, l'ultima puntata della settimana, una settimana che è stata veramente molto ricca di notizie, fatti, argomenti da trattare. Ieri il nostro Mario Draghi è stato il vero protagonista della giornata, ha azzerato i tassi di interesse in Europa. Noi tra poco vi racconteremo oggi quali sono le nuove reazioni del mercato. Lunedì faremo un nuovo punto sui mutui, cosa cambia con i tassi zero per chi paga le rate attualmente, per chi è in procinto di stipulare un mutuo, ma da una parte c'è la BCE che azzera, dall'altro c'è anche chi aumenta non i tassi ma le tariffe. Parlo delle compagnie telefoniche, in particolare di Telecom. La notizia noi l'abbiamo già data la settimana scorsa e subito si sono sollevate le associazioni dei consumatori, perché Telecom, che ora si chiama TIM ed è il nuovo marchio della società che copre anche il fisso, ha deciso di, con un annuncio pubblicato sui principali quotidiani, lo ha comunicato in questa maniera, ha deciso di aumentare i costi delle chiamate a consumo verso i telefoni fissi e i cellulari nazionali dell'offerta voce della linea ISDN. Allora, cosa cambia per i consumatori? Cosa c'è dietro questa decisione? E soprattutto, si può recedere da questa nuova rimodulazione tariffaria se il consumatore non è contento? Naturalmente stamattina avremo Telecom in diretta, avremo anche un'associazione dei consumatori che ci dirà che cosa ne pensa rispetto a questo comportamento, ma soprattutto le compagnie possono fare quello che vogliono rispetto alla modalità di comunicazione che è stata decisa per questa nuova politica tariffaria. Per cui tanti temi di denari, allora non perdiamo ulteriormente tempo, vi do subito il numero verde a cui intervenire, che è l'800 24 00 24. Deborah, e se rischiamo di spendere di più per il telefono, ho una proposta. Fammel, indecente o decente? Mezza indecente. Potremmo risparmiare lavandoci di meno, perché se ne parla proprio in questi giorni. Fulco questo... Pratesi a suo tempo. Vero? No? Aveva fatto scuola. Esatto. Questo signor McCarthy, che è un esperto d'ambiente, un giornalista e uno scrittore, in un articolo sul Guardian ha lanciato la sua crociata contro la doccia quotidiana. Una doccia al giorno è costosa, inquinante, inutile e anche poco salutare. Ne basterebbe una alla settimana. E allora al tema abbiamo pensato di dedicare il nostro sondaggione di oggi su Twitter, ma quello che ha catturato la nostra attenzione, oltre ai denari e al risparmio, è la posizione di alcuni dermatologi nei confronti dell'uso eccessivo del sapone, colpevole di rimuovere quegli oli naturalmente protettivi della pelle e anche di spazzare via i batteri buoni. Sarà per questo, allora, ci chiediamo, che la nostra pelle è diventata così sensibile, le dermatiti sono sensibilmente aumentate? Allora, sicuramente la teoria dell'igiene eccessiva non è nuova, noi torneremo a parlare, ma soprattutto questa è un'occasione per affrontare i disagi a fior di pelle. Ne parliamo nella seconda parte della trasmissione, ma voi potete già prenotare i vostri interventi, partecipare al nostro sondaggio e, che dire, se la pelle vi prude, si secca, si squama, si arrossa, calmatela con il nostro numero verde. The Governing Council has decided on a set of measures in the pursuit of its price stability objective. Il Consiglio direttivo ha deciso una serie di misure con lo scopo di perseguire l'obiettivo della stabilità dei prezzi. Primo, abbiamo riproposto ai nostri ascoltatori un breve brano tra i tanti che abbiamo scelto ieri nella conferenza stampa di Mario Draghi al termine del direttivo della Banca Centrale Europea, dal quale sono emerse tutte le numerose iniziative di ulteriore stimolo monetario che la Banca Centrale Europea porterà avanti nei prossimi mesi. Faccio solamente questo breve inciso perché la notizia di oggi, che campeggia su tutti i giornali, ieri abbiamo visto, dopo la comunicazione di queste decisioni, quella che è stata la reazione a dir poco convulsa delle borse, che hanno subito avuto un'enorme fiammata. A Milano dalle 14.30 in avanti ha cominciato a correre, a guadagnare più di 4 punti, poi ad un certo punto hanno tutte cambiato direzione, perdendo terreno e chiudendo non solo in negativo ma anche in profondo rosso. Francoforte più di 2 punti percentuali, ieri Milano ha perso mezzo punto. Perché? Perché le iniziative di stimolo monetario sono state molto significative, forse al di sopra delle attese, però poi Draghi ha detto basta, adesso sui tassi io non posso intervenire più. E allora lì delusione e marcia indietro, e addirittura fiammata dell'euro sul dollaro, anche stamattina è sopra 1,11. Oggi invece la situazione rosea, in borsa direi più che positiva, Milano guadagna 3,5 punti, questo tanto per dimostrarvi l'indecisione che c'è fra gli operatori finanziari, che probabilmente preferiscono chiudere in verde la settimana dei mercati. Corrono tutte le banche, Unicredit, Monte dei Paschi, UbiBanca, Intesa sono in rialzo di oltre 7 punti, +6 per il Banco Popolare, Mediobanca, Popolare di Milano. Su questo tema Noi torneremo lunedì con un focus sul tema che preferiamo, che è sempre quello dei mutui, naturalmente. Non ci accaniremo sulle società che li stipulano in valuta straniera, come abbiamo fatto questa settimana, ma parleremo delle banche che fanno dei mutui tradizionali, tasso fisso, variabile, cosa conviene fare ora, come stanno viaggiando le rate di chi li ha in questo momento, cosa succede anche al mondo dei prestiti, quindi appuntamento a lunedì. Ora andiamo alle tariffe telefoniche. Marco, ma mi ami? Ma quanto mi ami? E mi pensi? Ma quanto mi pensi? Oh, scusa, un'altra telefonata, aspetta. Ciao Andrea! Siamo delle abitudinarie, anche un po' nostalgiche se vogliamo, no? È vero. Per il tema di oggi, che avevamo un pochino anticipato una decina di giorni fa, abbiamo ripescato questo celebre spot che risale agli anni 90, ve lo ricorderete tutti, l'epoca in cui il gestore telefonico era uno solo, unico, la SIP, che poi ha cambiato nome, lo sappiamo, si è passati al mercato libero, oggi molti addirittura decidono di non avere più in casa per niente il telefono fisso. I clienti della vecchia SIP, poi Telecom, che però sono rimasti molti, a tutti questi italiani interesserà sapere che è in arrivo una novità: raddoppiano i costi delle chiamate da casa per i clienti che ora sono clienti TIM, visto che questo è il nuovo marchio Telecom che copre anche il fisso. La società lo ha fatto sapere con un annuncio pubblicato a fine febbraio sui principali quotidiani. Ma per chi non legge il quotidiano e magari non fa caso agli annunci delle aziende, anche se legge il quotidiano, ma non telefona. Legge queste pagine, esatto, e fra qualche settimana scoprirà che la bolletta è un pochino più salata. Come viene informato? È stato giusto questo modo di operare? Perché già le associazioni dei consumatori si sono un po' irritate. Allora chiederemo ragioni a Telecom di tutto ciò, ma soprattutto chiederemo anche quanto impatto avrà economico fra le famiglie questa rimodulazione tariffaria. Allora ringrazio per essere con noi questa mattina la dottoressa Enrica Danese, responsabile della regolamentazione servizi retail di TIM. Buongiorno dottoressa Danese. Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. E poi abbiamo chiesto anche di nuovo il parere su questa notizia all'avvocato Emanuela Bertucci, legale dell'Associazione dei Consumatori ADUC. Benvenuta anche a lei, avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. E intanto numero verde per gli ascoltatori è sempre lo stesso, è l'800 24 00 24, che rimane gratuito, non c'è scatto alla risposta, siamo sicuri su questo. Raccontateci se siete a conoscenza di questa novità, come vi è stata comunicata. Sapete che l'operatore telefonico può cambiare la sua tariffa senza chiedervi un consenso? Controllate ogni tanto che le tariffe siano sempre quelle che conoscevate. Una volta sottoscritto un contratto non ci pensate più. Perché ti accasci? No, mi accascio perché io non controllo. Ecco. Bene, dottoressa Danese, voglio cominciare subito con lei. Tra l'altro fra un minuto e mezzo abbiamo già il traffico, ma so che lei è bella concisa, efficace e ci racconta intanto in che cosa consiste questo aumento delle tariffe appunto in casa TIM e cosa succede dal 1 aprile. Quindi cominciamo proprio con un ABC. Sì, buongiorno di nuovo. Allora, questa rimodulazione di prezzo non riguarda la totalità dei clienti di Telecom Italia, ma riguarda un'offerta specificamente, che è l'offerta che noi chiamiamo voce. Riguarda quindi circa 700.000 clienti e sono quei clienti che ancora oggi diciamo sono affezionati all'idea di avere un canone, il tanto come dire odiato canone, ma invece abbiamo ancora dei clienti che desiderano questo tipo di offerte e sono clienti che fanno pochissimo traffico. Ognuno ha le sue debolezze, c'è anche chi è appassionato del vostro abbonamento, pensi un po', del vostro canone. Questi clienti fanno poco traffico, l'aumento riguarda il traffico, quindi diciamo che l'aumento della loro bolletta sarà molto relativo. Tecnicamente che cosa succede? Il prezzo del traffico passerà da 10 centesimi al minuto a 20 centesimi al minuto con l'introduzione di uno scatto alla risposta di 20 centesimi. La decorrenza, questo dottoressa, esatto, no, io la interrompo subito per capire perché volete in qualche maniera incentivare una migrazione verso un altro tipo di offerta, spingere verso un altro tipo di piano tariffario. Perché la questione del canone non è più conveniente per Telecom? Spingere l'avremmo tolta questa offerta. Noi abbiamo un portafoglio che si articola attraverso diversi servizi. I clienti possono scegliere questa offerta, possono scegliere l'offerta tutto voce, possono scegliere le offerte fibra, DSL o addirittura quelle che danno la possibilità di avere Sky, Mediaset, Netflix, eccetera sul televisore. Quindi è una rimodulazione che riguarda l'offerta solo voce con il canone e se avessimo voluto spingere verso l'offerta tutto voce, diciamo che avremmo fatto prima questa manovra, ossia l'anno scorso, per indurli a passare alla nostra offerta tutto voce. Invece abbiamo prima fatto la rimodulazione dell'offerta tutto voce, che è quella con tutto il traffico illimitato, l'abbiamo fatta l'anno scorso, e oggi per quei clienti che ancora desiderano questa offerta, e poi magari avremo l'opportunità di spiegare quali sono questi clienti, esatto. Per questi clienti aumenta, devo dire, perché non ci nascondiamo su questo, aumenta il costo del traffico. Mm-hmm. Aumenta dal 1 aprile, voglio precisare che lo abbiamo comunicato a tutti quanti i clienti attraverso le bollette telefoniche e devo dire che con un certo orgoglio, perché forse siamo tra i pochissimi a farlo, anche d'accordo con l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è sempre molto attiva, lo abbiamo fatto facendo un annuncio che comincia così nella bolletta: comunicazione importante, scritto in grassetto per il cliente, modifica delle condizioni economiche contrattuali. Voce. Quindi i clienti non apprendono questa notizia esclusivamente dai giornali, ma l'apprendono dalla loro bolletta. Certo, poi ci sono quelli che le bollette non le leggono, e su questo... Questo è un problema che riguarda tanti estratti, l'estratto conto bancario, dottoressa Danese, è un problema vecchio, insomma, non leggiamo gli scontrini, li buttiamo via, c'è un problema un po' generale su questo. Comunque, allora, chiediamo ai nostri ascoltatori se si sono accorti di questa novità in bolletta o se leggono solamente l'importo finale, se questo è coerente con i consumi effettuati. C'è il traffico, intanto vi ricordo ancora 800 24 00 24, questa è la notizia, sentiremo perché ha suscitato tanto attrito tra le associazioni dei consumatori. Cuore e denari. Piange il E allora, in primavera forse piangerà un pochino la bolletta di 700.000 persone in Italia, perché come avete sentito il gruppo TIM ci ha spiegato poco fa a Telecom che dal 1 aprile il prezzo delle chiamate a consumo verso i telefoni fissi e cellulari nazionali di una particolare tipologia di offerta, che è l'offerta voce della linea ISDN, quindi coloro che hanno solo la vecchia linea telefonica di base e non hanno aderito alle offerte cosiddette flat, che oggi sono le più diffuse, aumenterà da 10 a 20 centesimi al minuto e viene previsto anche uno scatto alla risposta di 20 centesimi. Le associazioni dei consumatori, qualcuna in particolare, è stata particolarmente irritata, a prescindere dalla decisione e dalla modalità di comunicazione ai consumatori, no? Allora, avvocato Emanuela Bertucci, ADUC, cosa vi ha particolarmente indispettito? Perché lei addirittura ha usato termini abbastanza forti nei comunicati che hanno commentato questa iniziativa. Ha parlato addirittura di un vizietto di Telecom. Sì, parliamo di un vizietto perché a pochi giorni dall'annuncio sui giornali di questa modifica, guarda caso, è stato emesso, ora potrebbe essere una coincidenza, ma proviamo a pensarla maliziosamente, è stato emesso dall'AGCOM una multa di 2 milioni di euro nei confronti di Telecom, proprio perché l'anno scorso Telecom ha, senza avvisare in maniera adeguata i clienti, di fatto modificato questo che è il servizio base, quindi la telefonia fissa che non ha altre offerte flat in abbonamento, ha modificato questa condizione contrattuale senza dare delle informative adeguate e soprattutto da parte dell'autorità c'è stata una forte critica a quelli che sono gli obblighi di servizio universale della Telecom. Quindi ora, se volete, possiamo spiegare in che cosa consiste. Io che la questione del servizio universale è particolarmente complicata, magari la lascerei in una seconda parte della, diciamo, del programma, se ce la facciamo. Cercheremo, avvocato Bertucci, ecco, certo. Ma quindi il tema è i temi sono due: uno, l'informazione ai clienti; due, il fatto che Telecom gode di un onore e onere, che è quello di gestire il servizio universale, perché proviene dalla ex SIP e quindi per legge il soggetto che deve garantire che la telefonia, che è considerata un bene di grande rilevanza, sia dato come servizio a tutte le utenze in tutto il territorio italiano e a dei costi accessibili, e questo è il tasto dolente. Ma quello che non ho capito, la coincidenza di cui lei parlava all'inizio, lei sostiene che praticamente, che cosa fanno? Aumentano le tariffe dal 1 aprile per pagarsi la multa della AGCOM da 2 milioni? No, semplicemente ci sono, ci avevano già provato l'anno scorso, la GCOM li aveva diffidati dal proseguire con un'operazione con una informativa non corretta e li aveva diffidati proprio per i problemi che ci sono legati al servizio universale. Telecom ha comunque messo in atto, diciamo, la propria operazione semplicemente limitandosi a procrastinare il termine che le persone avevano per poter ricevere. Ma in realtà, dal se non leggo male, la manovra dell'anno scorso, l'iniziativa, la rimodulazione tariffaria proposta l'anno scorso riguardava più di 5 milioni di utenze. Quest'anno stiamo parlando di 7.000. Perché evidentemente, ora io appunto non ho i conti della Telecom in tasca e il numero di utenze, però è evidente che se l'anno scorso il servizio base era di 5 milioni e 200 mila utenti, oggi ne sono rimasti 700 mila che loro comunque stanno convertendo, aggirando quello che è stato l'ostacolo che aveva posto la GCOM l'anno scorso. Allora, e quindi stanno ultimando questa loro operazione. Volevo fare una chiosa, se me lo consente, su quanto ha detto la rappresentante della Telecom. L'informativa in bolletta è stata evidentemente siffatta, bene, ne prendiamo atto. Mi piacerebbe chiedere, e se eventualmente potete girare la domanda, in quale bolletta questa informativa è stata resa, perché bisogna verificare che ci siano effettivamente i 30 giorni per l'utenza. Poi questa informativa, e poi ci sono anche gli utenti, sì, no, ci sono anche gli utenti che si fanno addebitare direttamente sul conto la bolletta, in realtà il cartaceo, hanno scelto di non riceverlo più. Esatto, il discorso qual è? Che Telecom non ha deciso di dare questa informativa agli utenti con una comunicazione separata in bolletta per cortesia commerciale. Esiste una delibera della GCOM che impone a tutti i gestori tre attività. Benissimo. Allora, guardi, penso che di munizioni ne ha già utilizzate abbastanza. Abbia un attimo adesso di tranquillità, perché devo ritornare dall'altra parte e sentire come ci si difende in casa Telecom. Allora, intanto, rispetto, dottoressa Danese, purtroppo qua veramente in questi giorni siamo a pieno carico pubblicitario, per fortuna, ma la trasmissione ci scappa via di mano. Poi avete anche altri 10 minuti di tempo dopo il giornale radio, dopo le 11. Però una prima risposta che possiamo dare ai nostri ascoltatori rispetto alle contestazioni che mi muove Aduc è: rispetto all'offerta dell'anno scorso, sulla quale poi la GCOM vi ha chiesto di fare retromarcia in qualche maniera, anche con la sanzione eccetera, che differenza c'è appunto fra l'iniziativa di quest'anno e quella dell'anno scorso? No, però questo, mi scusi, è un punto essenziale, perché la GCOM non ci ha chiesto di fare retromarcia. Noi abbiamo fatto l'anno scorso un'operazione importantissima che va nella direzione del rebranding di Telecom, quindi come team stiamo modificando tutto il portafoglio per renderlo più semplice. Se oggi si va sul sito di team ci si rende conto di quanto si stia lavorando nell'ottica della trasparenza, poche offerte, semplici, molto confrontabili tra di loro. Questa è l'iniziativa che sta mettendo in campo Telecom Italia, che peraltro lavora in un settore forse tra i più competitivi in Italia, quindi non può certamente, complicati anche. E più complicati, quindi non può certamente correre il rischio di perdere i clienti. Dottoressa Danese, no, è un passaggio delicato, la rimando per farle fare un ragionamento completo a dopo il giornale radio. Abbia solo pazienza, pochissimi minuti. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Eccoci ritrovati a Cuore Denari, gli ultimi 10 minuti di tempo per ridefinire il perimetro di una situazione molto complicata che stiamo affrontando questa mattina, che riguarda circa 700.000 persone in Italia, gli utenti della TIM, che oggi è il marchio unico con cui Telecom gestisce appunto tutta la sua attività. E allora con noi questa mattina la dottoressa Enrica Danese, responsabile regolamentazione e servizi retail di TIM, insieme dall'altra parte ad Emanuela Bertucci, legale dell'Associazione dei Consumatori Aduc. Stiamo parlando di questa rimodulazione tariffaria che parte dal 1 aprile, da 10 a 20 centesimi al minuto aumenterà il costo della telefonata per quegli utenti che hanno l'offerta solo voce, e poi viene previsto anche uno scatto alla risposta. Qual è il punto della discordia, la modalità con cui Telecom ha comunicato questa novità e soprattutto l'Aduc, come avete sentito prima, a contestato anche la questione che, come dire, loro hanno detto, insomma, non si sa se casualmente, l'Agicom ha proprio recentemente condannato Telecom a pagare una multa da 2 milioni di euro per una condotta simile, non del tutto trasparente. Adesso io sintetizzo, poi Tim si difenderà a dovere, appunto, che risale all'anno scorso. Allora, dottoressa Danese, lei prima ci stava spiegando che l'operazione di quest'anno e quella dell'anno scorso non possono essere messe sullo stesso piano, perché l'anno scorso stavate conducendo una maxi operazione di rebranding del gruppo, e poi l'ho interrotta. Ecco, la lascio concludere. Sì, allora, infatti io ci tengo a precisare che quando viene annunciato un aumento dei prezzi per i clienti TIM, ma ricordo che TIM ha oltre 10 milioni di clienti e questo aumento riguarda 700.000 clienti, ossia un'offerta in particolare. Non, le due operazioni, quelle dell'anno scorso e quella di oggi, fanno parte di un'unica operazione, che è quella di rebranding, di semplificazione, di arricchimento dei servizi e di innovazione. Noi stiamo innovando tutte quante le offerte di TIM, ma ciò non vuol dire che la multa che abbiamo preso dall'Agicom in relazione all'attività dell'anno scorso abbia a che fare con l'operazione di oggi. Un punto sulla multa di 2 milioni di euro. Noi l'anno scorso abbiamo spostato i clienti, i nostri clienti che erano sull'offerta voce, su un'offerta flat. Dalla tariffa consumo alla forfait, tutta voce, sì. Sì, io credo che gli ascoltatori possono comprendere benissimo che se non lo avessimo fatto, oggi questo aumento di cui stiamo parlando avrebbe riguardato 4 milioni di clienti e non 700.000 clienti. L'anno scorso abbiamo proposto ai nostri clienti di passare all'offerta che è più richiesta dal mercato, che è l'offerta... L'avete proposto o è stato un trasferimento automatico? Stato un trasferimento automatico con possibilità di recesso. Dopodiché l'Agicom ha avuto da ridire, e io devo dire forse con un po' di ragione, perché avevamo fatto una comunicazione troppo complessa proprio perché era legata al rebranding e alla mensilizzazione della fattura, ha avuto da ridire sulla modalità in cui l'avevamo comunicata. Abbiamo ricomunicato tutto quanto, abbiamo aperto di nuovo la finestra di recesso che è stata aperta per oltre 5 mesi, e questo comunque ha determinato l'apertura di un procedimento che poi ha dato luogo alla sanzione di 2 milioni di euro. Devo dire però che l'operazione dell'anno scorso è stata un'operazione importante in termini positivi, perché questo spostamento dei clienti, con tutti i richiami che noi abbiamo fatto, ha dato luogo ad un grandissimo successo. I clienti non ci hanno lasciato, il che vuol dire che in un mercato competitivo come quello in cui lavoriamo noi tutti quanti i giorni, abbiamo fatto bene. Io questo lo dico con grande io posso capire forza. La sua posizione, dottoressa Danese. In realtà, qualche volta avventurarsi anche nel cambio di operatore, questo vale per le telecomunicazioni, non parlo solo di voi naturalmente, vale anche per il gas e l'energia, è talmente un'operazione scoraggiante che forse qualche volta, come dire, conviene per qualche utente, per qualche consumatore, rimanere con i vecchi operatori e pagare magari un po' di più, piuttosto che avventurarsi in un passaggio ad un altro soggetto che è veramente un lancio nel vuoto totale. Per questo è un altro tema che abbiamo denunciato più spesso. Detto questo, dottoressa Danese, adesso non so se ha concluso e ha argomentato la faccenda della multa, che definirei, no, volevamo parlare del tema della comunicazione in bolletta. Sì. La dottoressa Bertucci di ADU che chiedeva: in quale bolletta avete comunicato la novità che parte dal 1 aprile ai 700.000 interessati? L'abbiamo comunicata nella bolletta di febbraio, quindi ad oggi, perché siamo a marzo, tutti quanti i clienti interessati da questa modifica hanno ricevuto. Prima non era proprio possibile farlo. Ma guardi, per avere tutti i tempi necessari per esercitare il diritto di recesso, i tempi di sviluppo, perché richiedo, insomma, ci sono tante persone coinvolte, sistemi informatici eccetera, noi comunque arriviamo sempre, cerchiamo di comunicare queste iniziative almeno con un mese e mezzo di anticipo. In questo caso l'anticipo è sostanzialmente quasi di 2 mesi, perché alcuni l'hanno ricevuta ai primi di febbraio, mentre l'annuncio sui giornali era del 23 febbraio. Le faccio sentire, dottoressa Danese, anche ad Emanuela Bertucci cosa ci racconta Paolo dalla provincia di Modena, perché è un vostro negoziante e sta gestendo in questi giorni un po' di clienti che stanno andando a chiedere spiegazioni su questo aumento. Paolo, benvenuto, grazie per la sua testimonianza. Niente, grazie a voi, buona giornata innanzitutto. Guardi che opportunità che le do di parlare direttamente con i vostri responsabili più alti. Gli viene da ridere. Lasciamo perdere perché ci sono sicuramente all'interno di team delle cose da mettere a posto. ma in questo caso non posso fare nient'altro che condividere quello che ha detto la dottoressa, perché comunque noi abbiamo clienti che tutti i giorni vengono con la bolletta in negozio a farsi spiegare le cose, perché ovviamente non sono mai del tutto chiare, ma questo sarà impossibile. Guardi, io parlo di finanza tutto il giorno, veda un po' lei cosa, che salti mortali che dobbiamo fare per tradurre. Io capisco un 2%, quindi la capisco purtroppo bene. Poi ripeto, ci sta che un'azienda, secondo me, faccia il suo mestiere, che è quello comunque di guadagnare dei soldi, e secondo me la team si sta comunque muovendo bene per quello che è avvisare la clientela. Ripeto, noi solo oggi abbiamo avuto 10 persone che sono venute per questa cosa qui. Oggi, ma vogliono anche recedere il contratto, Paolo? Sono un po' indispettiti dall'aumento o solo chiedono... poi non lo dicono a lei se ne vogliono andare. Chi vuole recedere dal contratto, sinceramente... Va direttamente dall'altro operatore e chiede la portabilità. È più che altro gente che non telefona, lo usa proprio solo per comodità e per sicurezza, ma la maggior parte comunque lo tiene, anche perché se non ha necessità di internet, gente che telefona tanto, infatti, è già passata l'anno scorso alla nuova promozione. Certo. Quindi sinceramente, grazie Paolo, grazie. Allora, grazie, dottoressa Danese, purtroppo qua il tempo a nostra disposizione sta proprio scadendo. Un ultimo minuto le assegno anche per così spiegarci un po'. Le chiedo di approfittare anche di questa opportunità radiofonica che oggi avete per fare una comunicazione precisa agli utenti interessati, quelli che magari la bolletta non l'hanno letta, che non hanno letto l'annuncio sul quotidiano e che scoprono oggi che arriverà questa novità. Non avranno il tempo per fare un recesso, naturalmente, quindi sicuramente almeno un tot di telefonate con i costi maggiorati le dovranno fare. Che tipo di ricadute vi aspettate, anche numeriche, questi 700.000 utenti? Allora, intanto la ringrazio. Allora, io voglio ricordare a tutti quanti gli ascoltatori, e tra questi ci saranno alcuni nostri clienti, che possono esercitare il diritto di recesso fino alla data di applicazione della nuova offerta. Non avranno alcun costo, ma soprattutto, qualora non fossero più interessati all'offerta voce, hanno a disposizione l'intero portafoglio di Telecom Italia, che è molto molto trasparente, è molto confrontabile tra le diverse offerte. Voglio ricordare anche in ultimo una cosa che ritengo molto rilevante. Il settore delle telecomunicazioni è forse l'unico settore delle utilità in Italia che presenta una riduzione dei prezzi oggi rispetto addirittura al 2010. Quindi stiamo parlando di un settore dove i clienti non hanno bisogno di risparmiare sul lavarsi, come si diceva all'inizio della trasmissione, per pagare di più, ma anzi continuassero a telefonare e a lavarsi contemporaneamente. Senta, però noi quello che temiamo, soprattutto se fanno sport. Quello che noi temiamo però, dottoressa Danese, erano proprio le persone anziane che non riceveranno questa comunicazione. Tante persone molto semplici che avranno ancora proprio il vecchio strumento anche a casa, quello più vecchio, recente, naturalmente, che non potranno essere raggiunte da questa comunicazione e che magari, insomma, l'unica consolazione di giornate un po' così tranquille che hanno è quella di chiamare a raffica tutti i nipoti la sera. Sì, allora io su questo vorrei sfatare un mito. In realtà su questa offerta non ci sono le persone anziane, proprio perché hanno bisogno di parlare. Queste persone sono quelle che per prime sono passate alle offerte tutto voce o a quelle, ahimè, dei nostri concorrenti, che peraltro, proprio perché non ritengono che l'offerta di punta sia un'offerta tipo la nostra, tutto voce, hanno solo quel tipo di offerta, cioè solo l'offerta flat. In ogni caso queste persone possono rivolgersi ai nostri negozi, chiamare il 187 e anche accedere al sito e troveranno tutte grazie. Le informazioni che gli servono. Grazie dottoressa Danese. Intanto, per chi questo aumento non lo accetta, sappia che potrà recedere appunto dal contratto, anche passando ad un altro operatore senza pagare penali. Allora, mi spiace non aver potuto di nuovo ridare la parola all'Associazione dei Consumatori, ma Emanuela Bertucci è sempre molto presente sui media, per cui magari un'altra volta la faccio scatenare anche complessivamente sul tema che ci piace molto, Nicoletta, quella del passaggio da un operatore ad un altro, gas, energia e non solo telecomunicazioni, perché lì veramente ogni giorno ne scopriamo di cotte e di crude, per cui presto ritorneremo anche con la brava avvocato Bertucci a darci tutte le indicazioni giuste per muoverci in questa, che appunto ritorno a ridefinire, giungla. E adesso, con sta sudata che ho fatto con questa trasmissione, sentiamo. perché si fa prima e ci si lava meglio. Guarda, la doccia ma solo per motivi di tempo. Mi piacciono magari dei bagnoschiuma con delle essenze, sicuramente, però canticchiare cose non che mi ricordi, insomma. La doccia, perché si fa più in fretta. La doccia. Di solito quando sono di fretta torna più utile. La doccia perché è più rapida e perché cioè uno è sempre di fretta così, quindi ha meno tempo magari da star lì a rilassarsi. Il bagno ogni tanto, giusto come premio. Preferisco farmi la doccia, è perché è più veloce, sbrigativa. Poche volte, magari proprio quando sono stanca che voglio rilassarmi, allora però cioè, consideri quanta acqua va dentro in un bagno. E svegliarsi la mattina. Allora, il verdetto della nostra Vox Populi milanesissima, è chiaro. Tutti schizzati, sempre di corsa. Doccia batte bagno 1-0. È veloce, energizzante, risparmiosa, amica dell'ambiente, del portafoglio, e alla doccia è dedicato il nostro sondaggio di oggi su Twitter. E voi quante docce fate? Una al giorno, a giorni alterni, una volta alla settimana? Ma raccontateci anche che cosa succede poi quando vi trovate in un ambiente chiuso, con altre persone. Notate degli strani movimenti, degli strani spostamenti, avete il vuoto intorno? Riflettete. Allora, intanto salutiamo la nostra esperta che è tornata a trovarci a grande richiesta, la dottoressa Adele Sparavigna, dermatologa. Buongiorno. Buongiorno. Dottoressa, potremmo stare qui ore e ore a parlare dei vantaggi dell'una o dell'altra scelta, noi andiamo oltre, ricordando che molte delle nostre abitudini hanno un peso sui consumi e sull'ambiente, ma indipendentemente da dove ci laviamo, è importante considerare anche quanto e come lo facciamo, perché lavarsi troppo fa male. Non è una novità, l'igiene eccessiva è ritenuta in parte anche responsabile dell'aumento delle allergie dei bambini, insieme ad altri fattori, questo voglio sottolinearlo, ma noi oggi ci occupiamo della nostra pelle, lava oggi e lava domani, la nostra pelle viene privata da quelle difese naturali e a poco diventa sempre più sensibile e delicata, si arrossa, prude, si secca, si copre di papuline, si squame, insomma non è una bellezza, dottoressa Sparavigna. Chi pulito si vuol sentire sembra che un po' debba soffrire, è corretto? È vero? Non è detto, non è detto. Anzitutto ricordiamo che le leggi della dermatologia non sempre sono uguali per tutti, anzi quasi mai. Quindi le necessità possono essere diverse a seconda della persona. Sì. Certo, la maggioranza di noi soffre riferisce di soffrire di cute sensibile. Effettivamente siamo abituati a lavarci molto spesso e quindi magari dobbiamo dare una rallentata a tutto questo. Però ci sono anche persone che hanno necessità opposte, perché magari sudano molto, perché magari producono molto sebo, e non vorrei lanciare un messaggio sbagliato dicendo lavatevi di meno. Brava, perché no, viaggiando anche in metropolitana, ecco, direi che bisogna. No, ecco, noi abbiamo delle esperienze almeno quotidiane. Almeno a pezzi. Almeno a pezzi. Lavatevi almeno a pezzi, se non tutti i giorni. E non il pezzo così, un pezzetto di spalla, ma quelli non a random. Quelli imputati, esatto. Allora, 800 24 00 24, Carmelo se la ride, 349 238 6666, il nostro sondaggione su Twitter. Dottoressa Sparavigna, la pelle, te lo stanno già scrivendo le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, dopo il bagno alcune persone avvertono questa pelle che tira, che sembra secca, a volte basta addirittura l'acqua a infastidirla. Di una persona semplice si dice una persona acqua e sapone, ma preparando questa puntata mi sono accorta che lavarsi sembra diventata una cosa molto difficile. Molto molto difficile, anche perché le acque dei nostri acquedotti possono essere molto dannose per la pelle. Io ho coniato un termine, il paradosso dell'acqua di rubinetto. Meglio berla che applicarla sulla pelle. Veramente? Sì, perché il nostro stomaco ha i suoi acidi, ha le sue barriere, la pelle molto meno. Quindi, e poi c'è il problema che l'acqua cambia di zona in zona, addirittura il grosso polverone su questo argomento fu sollevato una ventina d'anni fa, quando sulla prestigiosa rivista Lancet si pubblicò uno studio dove si evidenziava che maggiore la durezza, quindi la presenza di calcare nell'acqua di rubinetto, maggiore l'incidenza di dermatite atopica nei bambini e nella popolazione. Quindi questo la dice veramente lunga di quanto l'acqua possa essere aggressiva nei confronti della nostra pelle. Citati bambini, apriamo una parentesi: c'è una corrente di pensiero che sollecita i genitori a smettere di lavare i bambini tutti i giorni perché l'esposizione alla sporcizia, chiamiamola così, ai batteri, contribuisce a rendere la loro pelle meno sensibile e nel lungo periodo anche a prevenire gli eczemi, li chiamo così, ma in generale le dermatite. Anche i pediatri americani raccomandano 3 lavaggi a settimana o anche meno se i bambini hanno la pelle particolarmente delicata. Stessa cosa per gli anziani, che hanno la pelle più secca e quindi non dovrebbero lavarsi con il sapone. Quindi, dottoressa Sparavigna, indicazioni per bambini e anziani sono, no? Allora, diciamo che ci sono due tipi di pelle molto diverse, delicata. Una molto ricca, no, di acqua e l'altra assolutamente povera. Ma entrambe fragili. Entrambe fragili. Allora, dobbiamo distinguere due tipi di problemi. Quei problemi in cui è coinvolto il sistema immunitario e quindi quelli di noi, quelli della nostra generazione che hanno cresciuto i figli in maniera asettica, ammettiamolo, hanno visto l'aumento delle malattie allergiche, proprio perché questo sistema immunitario risultava un po' disoccupato, diciamo la verità, e quindi è piuttosto che far nulla fa le allergie. Eh sì, perché non vuole stare lì con le mani in mano, no? Ecco, dice, allora io qua che cosa ci sto a fare? Perfetto, beccati una dermatite. Ecco, quindi avremmo fatto, io le mie figlie non le ho fatte neanche gattonare, me ne pento, sono una mamma pentita. No, le mie devono avere degli anticorpi che uccidono perché sono nate miei nipoti, cresciute guarda. Con dei cani, per cui non lo so. Bellissimo, tornassi indietro farei lo zoo. Invece d'altro canto esiste poi la problematica della irritabilità della pelle, quindi proprio della struttura, della composizione della pelle, che è ancora povera nel bambino perché non è ancora matura e si è depauperata nell'anziano perché non produce più quelle sostanze lipidiche che le sarebbero necessarie per fare da barriera. Ecco, il sebo, che noi vediamo un po' come il fumo negli occhi, uno dice, quando dice sebo dice che no, sebo, anche la parola invece in aiuta. La crema naturale della pelle, ma non è solo il sebo, esistono anche i lipidi della superficie epidermica dello strato corneo che sono fondamentali. Quindi per bambini e per anziani lei ha un consiglio flash? Consiglio allora, la vasca, le mamme. Consiglio la vasca, torniamo al nostro argomento, al nostro tema principale. Perché? Perché nella vasca noi stiamo di più e se utilizziamo delle sostanze giuste, delle sostanze surgrassanti, dei detergenti delicati, dei sali che possono servire alla nostra pelle, possiamo cominciare a fare una terapia. Già dentro la vasca, nella doccia questo è molto più difficile. Per gli anziani la vasca diventa un posto molto a rischio, lo sappiamo, per cadute, vanno aiutati, eccetera, naturalmente vanno aiutati, mentre per i bambini non c'è neanche il problema di sprecare troppa acqua, perché i bambini sono... Infatti. Ma poi la vasca non è detto che si debba riempire fino all'orlo, no? Si può riempire anche una mezza vaschettina. Ecco. Allora, se volete saperne di più, chiamate il nostro numero verde, partecipate al nostro sondaggio, abbiamo già Carla da Bari, Giuseppe da Milano. Vi lavate tutti i giorni, doccia, vasca, vi lavate a giorni alterni, che cosa dice la vostra pelle, perché di squamette, vescicole, crosticine, secchezza, rossore, prurito parleremo, perché sono tanti e diversi i modi con cui la pelle manifesta il suo disagio e anche tanti nomi che si associano al termine molto generico dermatite, perché c'è quella topica, quella da contatto, quella seborroica e andando sul difficile, dottoressa Sparavigna, anche quella herpetiforme, vero? Sì. Ma oggi vi parleremo anche della dermatite da stress e da quella da comfort. Da consorte, compagno o dintorni. Adesso vediamo se sono i mercati, se ci fanno un po' impegno. Prurito oppure tranquilli. Oggi proprio sono rosa. Guarda come mi accarezzo la pelle, che sono così rassicurata, insomma, da quello che vedo. A tra poco. Cuore e denari. Acqua azzurra, acqua chiara. Allora, lavarsi troppo può far male. Ma a non lavarsi si puzza, ecco. Si può cercare di conciliare un po' le due cose, eh? 800 24 00 24. Torniamo a parlare della teoria dell'eccesso di igiene, una teoria che non è nuova, è considerata una, metto, sottolineo una, non la sola, una delle cause dell'aumento di allergia nei bambini. L'abbiamo sentita citare anche più volte da pediatri allergologi che hanno partecipato qua a Cuore Denari. Insomma, sembra che gli eccessivi sforzi per pulire, eliminando i germi, possano ridurre la naturale esposizione ai microorganismi presenti nell'ambiente, aumentando quindi in teoria il rischio di allergie della serie il troppo stroppia. Vale anche per l'igiene, ma noi in questa puntata rassicuriamo gli ascoltatori, Deborah, non stiamo invitando a non lavarsi. No, perché ma c'è chi anche mette in dubbio di lavarsi le mani prima di pranzo. Allora, questa domanda qua non la possiamo accettare. Mi raccomando, soprattutto, ecco, prima di pranzo sempre e anche dopo essere andati in bagno, perché ci sono, hanno fatto delle ecco. Analisi come no? Sulle patatine, noccioline, vero? E hanno cosa trovato sulle tastiere dei computer, carrelli del supermercato. Brava, si trova l'universo mondo di cose che inspiegabilmente sono arrivate lì, ma potrebbero arrivare solo, no? Da dove partono si capisce bene, uno dice ma come mai le mani? Allora, roba da delirio microbiologico. Dottoressa Sparavigna, allora oggi noi diciamo lavatevi bene nel rispetto della vostra pelle. Sì. Ce lo insegna la dottoressa Sparavigna, perché lavarsi non è una cosa semplice. Ci sono anche persone che si fanno la doccia tutti i giorni, ma come dicevi tu, Deborah, entrano ed escono, si laveranno. No, infatti io vedo in palestra delle cose, cioè dopo la lezione sudate come degli animali, ma entrano e escono veramente, qualche volta addirittura ancora con il sapone sulla schiena. Ma dico, ma puoi aspettare 3 secondi, lavarti un po' meglio? Allora, Bruno ci scrive: per il bidet gli uomini che sapone devono usare? Il caro Bruno non sente Salute Uomo, perché noi abbiamo fatto un approfondimento sull'igiene maschile con il suo amico professor Borellini, siete venuti insieme, sì. Quindi trovate tutto sulla pagina di Cuore e Denari. L'igiene intima al maschile, che ha delle caratteristiche molto diverse da quelle femminili, vi posso dire, non usate il sapone, non va bene. No. Ecco, allora andiamo da Carla, da Giuseppe e da Lucio, facciamo una carrellata. Bella carrellata di domande, infornata. Tutti sotto la doccia. Carla, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Penso che concordo con tutto quello che avete detto, quindi non mi resta che portare quella che è la mia esperienza. Io facevo sempre la doccia tutti i giorni, l'ho fatta per anni, poi ho scoperto che appunto mi creava dei problemi. Adesso mi lavo, faccio la doccia una volta alla settimana, però premetto che in ogni caso questo è un discorso personale. È ovvio che se uno ha un lavoro dove suda molto, però comunque, si può anche lavare a pezzi, insomma, collo, piedi, bidet, ascelle, quello si va. Questo non vuol dire che io non mi lavi, perché tutte le mattine mi lavo il viso, mi lavo le ascelle, mi faccio il bidet e tutte le sere prima di andare a dormire lavo i piedi, questo assolutamente sempre. Però, come giustamente diceva la dottoressa, utilizzando in ogni caso i saponi giusti, ad esempio il viso io lo lavo da sempre con un gel, e mi dicono, io ho 66 anni, mi dicono tutti che ne dimostro 10 di meno. Ecco, vede, quindi ecco, facciamo come Carla, grazie Carla. No, e in privato ci scriva il marchio del gel, perché qua bisogna lavarsi bene e poi bisogna anche incremarsi nel modo giusto. La dottoressa Sparavigna, attenzione oggi, se usate la crema dopo il bagno, ci darà un trucchetto per capire se è quella giusta. Volete certamente saperlo? Chiamateci. Giuseppe, buongiorno da Milano, chissà se usa la crema. Giuseppe. Sì, buongiorno. Buongiorno. Grazie. Devi andare a ridere. Per la trasmissione. Sì. Sì, no, perché la crema la uso. Allora, bravo, bravo. Io adoro gli uomini profumati. Da 20 anni a questa parte faccio tutti i giorni la doccia, perché per il mio lavoro, che lavoro in mezzo alla polvere, e mi succede che se non metto la crema mi si screpola il viso, le gambe, anche proprio... Quindi Giuseppe, chiaramente è un caso di pelle molto sensibile e secca. Sì, una xerosi indotta probabilmente anche dai lavaggi frequenti. Vedi che bella parola, xerosi. Ma quante ne sa la dottoressa Sparavigna? Allora, un'indicazione per Giuseppe, perché sono tante le persone che si ritrovano nella condizione di Giuseppe, che o con doccia o con vasca, ma comunque la pelle alla fine tira secca e diventa quasi anche un po' simile a una forforina. Certo, certo, perché la pelle perde la sua barriera, perde la sua capacità di trattenere l'acqua all'interno e le cellule tendono ad squamare più facilmente. Come si fa? Prima di tutto facciamo attenzione al detergente. Dell'acqua poi ne parleremo. Nel mio istituto stiamo facendo degli studi molto interessanti su come agire sull'acqua di rubinetto per poter poi avere anche un beneficio dall'acqua di rubinetto. Ma questo è futuro. Per quello che abbiamo... E quindi tornerà. E quindi tornerò e ve ne parlerò. Per quello che abbiamo disponibile al momento, diciamo che prima di tutto il detergente va scelto con cura. Molto importante scegliere un detergente che sia delicato. Che cosa significa delicato? Che abbia un pH simile a quello della pelle, quindi un pH leggermente acido, e che apporti alla pelle quei lipidi che noi asportiamo con il lavaggio. Questo il sapone è già... neutro non va bene, quindi. No, allora, se per neutro intendiamo il termine chimico, no, ma quello neutro, che noi leggiamo quando lo compriamo al supermercato, in negozio, sapone neutro. Neutro, no? Significa che ha un pH neutro, e quindi che non è il bene. Nostro pH, è il pH del nostro sangue, ma non è il pH della nostra pelle. Quindi noi dobbiamo prendere un detergente. Quando lei mi dice detergente vuol dire che deve essere liquido, quindi. Allora, può essere anche sotto forma solida, ma deve essere un detergente sintetico, quello che noi chiamiamo Sindet. Perché? Perché in questo modo noi riusciamo a aggiungere alla pelle e non a sottrarre, cosa che invece fa il sapone. Il sapone sgrassa troppo. Ma cosa dobbiamo leggere in etichetta? Andiamo al supermercato, in farmacia, ci stanno chiedendo, ma dove lo compro? Supermercato, in farmacia, in drogheria, nei negozi di erboristeria, in quelli... Allora l'etichetta, se guardiamo l'Inci. Poi ci guida in qualsiasi ambiente. Non è detto che al supermercato non ci siano prodotti buoni, come non è detto che in farmacia siano tutti i prodotti ottimi. Noi ci inforchiamo gli occhiali. Inforchiamo gli occhiali e andiamo a leggere. Andiamo cosa? A vedere se, per esempio, c'è il sodio laurilsolfato. Il sodio lauret solfate, come viene scritto nella denominazione INCI, perché quello tra i tensioattivi è uno dei più aggressivi. Quindi no sodio. No sodio laurilsolfato, ma per esempio coccoamido propil betaine, sono tutte sostanze che sono detergenti ma meno aggressive. Cioè quel finale INE ci aiuta, mentre lato di solito va eliminato. È così? Va bene. A grandi accettiamo linee. Questo compromesso. Perché poi io adesso oggi pomeriggio vado a comprarlo e se non vado per l'OCI non mi ricordo. Allora facciamo una cosa, cerchiamo anche soprattutto nella dicitura del prodotto il pH, il pH che deve essere leggermente acido, quindi 5, massimo 6, sì. E anche se è un prodotto che aggiunge lipidi, surgrassante, relipidizzante. Cosa leggo per vedere se ci sono questi grassetti? C'è scritto? Surgrass oppure relipidizzante, di solito... Ok, allora il detergente, amici, l'abbiamo scelto, ma subito dopo le informazioni sul traffico la dottoressa Sparavigna ci darà il trucchetto per capire se la crema che applichiamo, e a proposito, donna di denari, compriamo pure... Quindi ci spendiamo pure dei soldi. Esattamente. Se spendiamo bene i nostri soldi e salviamo anche la nostra pelle, cuore e denari. Adesso informazioni sul traffico, voilà. E poi torniamo subito dopo insieme con Lucio da Pordenone, Alessandra da Treviso, e parliamo di dermatiti. Una famiglia molto eterogenea. Consigli della dottoressa Sparavigna. Quindi se la vostra pelle si arrossa, squama, prude, o se è a farlo è quella dei vostri bambini, chiamateci. Cuore e denari. Prova a camminare. Allora, siamo tornati insieme in una puntata in cui ci laviamo. Un ascoltatore mi scrive: ma Nicoletta, sei scioccanti. Prima dice che fa male lavarsi troppo, ma se uno fa un lavoro dove si suda molto e si sporca, come deve fare? Non tutti fanno i lavori sedentari e non tutti ascoltano bene quello che diciamo, perché non stiamo dicendo di non lavarvi, stiamo dicendo di lavarvi bene. Con la dottoressa Sparavigna, ci siamo alla dottoressa Sparavigna, abbiamo chiesto di darci quali sono, di darci le regole di un buon detergente. E adesso andiamo, no, volevo solamente precisarlo perché forse non sono stata sufficientemente chiara. Dottoressa Sparavigna, ci dà il trucchetto per la crema? Per capire se la crema va bene? Volete tutti diventare esperti? Sì. E sia. Allora, quando applichiamo la crema, dobbiamo vedere, spalmandola, se fa una schiuma. Se fa una schiuma non va bene, è aggressiva. Che cosa significa? Vuol dire che le sostanze lipidiche che sono presenti nella crema tendono a saponare. E sì, quindi anche se il sapone non lo abbiamo utilizzato per lavarci, in realtà lo stiamo creando con la crema. Quindi più una crema è difficile a spalmarsi, è difficile ad assorbirsi, fa una micro schiuma di superficie, più la nostra pelle risulterà aggredita. Più la nostra pelle è fluida, si spande bene, si assorbe bene e non sapona sulla pelle, quella è la crema adatta. Quella è la crema che fa per noi. 800 24 00 24, dottoressa Sparavigna, dermatiti, abbiamo detto, un gruppo di malattie della pelle molto ampio, con sintomi che possono sembrare molto simili ma con cause e decorsi tra loro differenti. Iniziamo a capire quali sono i tratti comuni. Intanto mi permetta di ricordare e sottolineare che non sono contagiose. No. Ecco, questo lo sottolineiamo perché ci sono ancora dei bambini che hanno dei problemi, magari hanno la dermatite atopica o soffrono di psoriasi, vanno a Anzi, scuola. Forse il problema è inverso. Ecco. Chi soffre di queste malattie rischia di più nel contatto con gli altri. Ecco. Allora, quali sono le caratteristiche che accomunano le dermatite? Insorgono a tutte le età o no? Facciamo un rapido quadro. Le dermatiti sono delle infiammazioni della pelle. Sì. Quindi sotto questo cappello, sotto questa definizione, c'è un universo mondo. Quelle che al giorno d'oggi preoccupano di più sono le dermatiti da contatto. Le dermatiti da contatto si dividono in due grandi categorie: da contatto irritante e da allergia. Sì. Quindi da contatto irritante dipende più che altro dalla sostanza. Quindi più una sostanza è caustica, più una sostanza ha determinate caratteristiche di pH, per esempio molto basico, allora quella sarà una sostanza irritante. Certo. Diversamente, le dermatiti allergiche da contatto derivano da una nostra predisposizione, dall'attivazione del nostro sistema immunitario. Questa è una distinzione importante. Anche se le dermatiti da contatto si caratterizzano anche per la posizione del Certamente, per esempio, sono più facili da diagnosticare. Non vogliamo sostituirci a voi come dermatologi, ma sicuramente anche la sede in cui si manifestano questi sintomi aiuta anche la persona a un po' orientarsi. Certamente. Ci sono delle novità nel trattamento della dermatite, delle dermatiti in genere, per spegnere quelli che sono i tratti più comuni e caratteristici? Il prurito, dottoressa? Sì. Che, io oggi ho il prurito per la storia di Tim, perché sono cliente Tim. Vede? Ecco, vede che è perfetto. Un cuore denari, il rossore, le chiazze. Non abbiamo naturalmente il tempo, abbiamo pochi minuti, vogliamo ascoltare anche i nostri amici da casa per individuare tutte, fare una puntata per ciascuna di queste patologie. Ma ci sono delle indicazioni, dei nuovi trattamenti, delle creme a base di sostanze particolarmente adatte? Allora, a parte quella che è la terapia farmacologica, che ci sono molte novità, ma è una cosa troppo specialistica. Parliamo invece della grossa rivoluzione che ha interessato il mondo dermatologico negli ultimi 20 anni. È il concetto di corneoterapia. Noi la pelle la dobbiamo trattare sulla superficie. Il nostro organo bersaglio è la superficie, lo strato corneo, che sembra uno strato di cellule morte, di cellule ormai in via di sfaldamento che non servono a nessuno. Servono a noi perché è proprio a livello dello strato corneo che avviene una marea di reazioni enzimatiche che servono a mantenere la nostra pelle in equilibrio. Quindi è molto importante rispettare l'ecosistema cutaneo. Ecosistema cutaneo in termini appunto di lavaggio e di, per questo ne abbiamo parlato, infatti, di microflora cutanea, perché noi abbiamo un microbioma cutaneo che va rispettato e che è molto di aiuto per abbiamo un intestinale di cui abbiamo parlato tante volte, ma esiste anche il microbioma cutaneo che è altrettanto importante. Su questo strato così importante, su quali sono le attenzioni e le novità che possono aiutarci quindi a mantenerlo in salute, a proteggerlo? Allora, soprattutto quando mostra un po' il fianco, sì, come nel caso delle dermatiti. Sì, noi abbiamo due elementi fondamentali da tenere sempre sotto osservazione. Due concetti che sembrano banali ma che sono importantissimi, e sono l'idratazione e il pH. Perché? Perché queste reazioni che avvengono nello strato corneo sono reazioni enzimatiche, gli enzimi hanno bisogno di acqua e un punto isoelettrico, cioè il pH, ottimale per poter funzionare bene. Quindi l'idratazione è fondamentale, la crema vi abbiamo insegnato a metterla, l'acqua, il sapone e il detergente vi abbiamo dato indicazioni per sceglierlo bene, e poi non trascurare, e questo non è il trascurare messaggio, il pH e come poter fare per mantenerlo sempre bilanciato. Anche questo sembra un concetto vecchio, ma è una grande novità. Allora, la dottoressa Sparavigna ha preparato per noi delle 7 regole d'oro che noi adesso andremo a registrare subito dopo la puntata e la mettiamo in tempo quasi reale sul nostro sito, quindi una sorta di nova de mecum per salvare la pelle. Chiediamo a Lucio da Pordenone di scriverci, come Alessandra da Treviso, perché non abbiamo più il tempo per dare loro voce, ma io vi voglio ricordare che avete ancora qualche minuto di tempo per iscrivervi al nostro programma Meno Pancia Più Salute. L'abbiamo lanciato in questi giorni, abbiamo fatto un ripescaggio, avete ancora 6 minuti di tempo perché la scadenza è a mezzogiorno di venerdì per ricevere a casa vostra il programma in 4 settimane ideato dal team del dottor Speciani per ridurre il girovita. E quindi 6 minuti possono fare la differenza. Altro che. Dottoressa Sparavigna, noi la ringraziamo, dobbiamo dedicare una puntata anche al lavaggio dei capelli, sì. Anche quello va fatto a regola d'arte, ne parleremo, sì. E intanto trasferitevi, tra poco sentirete i 7 consigli della dottoressa Sparavigna per salvare la pelle. Noi ritorniamo puntuali lunedì mattina alle 10:30, non mancate, con Cuore e Denari vi aspettiamo e a tutti buon fine settimana.